Vangelo di Matteo, capitolo 21. E quando furono vicini a Gerusalemme e furono giunti a Betfage, presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo: «Andate nella borgata che è dirimpetto a voi, e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e menatemeli. E se alcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà». Or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: «Dite alla figliuola di Sion, ecco il tuo re viene a te mansueto, è montato sopra un'asina e un asinello, puledro d'asina». E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato, menarono l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli, e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, e altri tagliavano dei rami degli alberi e li stendevano sulla via, e le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano: «Osanna al figliuolo di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nei luoghi altissimi». Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: «Chi è costui?». E le turbe dicevano: «Questi è Gesù, il profeta che è da Nazareth di Galilea». E Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che quivi vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e disse loro: «Egli è scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladroni». Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li sanò. Ma i capi sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte, e i fanciulli che gridavano nel tempio: «Osanna al figliuolo di Davide», ne furono indignati e gli dissero: «Odi tu quel che dicono costoro?». E Gesù disse loro: «Sì, non avete mai letto dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode?». E lasciateli se ne andò fuori dalla città a Betania, dove albergò. E la mattina, tornando in città, ebbe fame, e vedendo un fico sulla strada gli si accostò, ma non vi trovò altro che delle foglie, e gli disse: «Mai più in eterno non nasca frutto da te». E subito il fico si seccò. E i discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo: «Come se in un attimo seccato il fico?». E Gesù rispondendo disse loro: «Io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quel che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete». E quando fu giunto nel tempio, i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui, mentre egli insegnava, e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? E chi t'ha data cotesta autorità?». E Gesù rispondendo disse loro: «Anch'io vi domanderò una cosa, e se voi mi risponderete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, d'onde veniva, dal cielo o dagli uomini?». Ed essi ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà, perché dunque non gli credeste? E se diciamo dagli uomini, temiamo la moltitudine, perché tutti tengono Giovanni per profeta». Risposero dunque a Gesù dicendo: «Non lo sappiamo». E anche egli disse loro: «E neppur io vi dirò con quale autorità io fo queste cose». Or, che vi par egli? Un uomo aveva due figliuoli. Accostatosi al primo disse: «Figliuolo, va oggi a lavorare nella vigna». Ed egli rispondendo disse: «Vado, signore», ma non vi andò. E accostatosi al secondo gli disse lo stesso, ma egli rispondendo disse: «Non voglio,